Trovare nel cucchiaio un asterisco caduto nella minestra, oppure sentirlo sotto i denti, in un impasto, o ancora provare a destrarlo con la punta del coltello da un bicchiere di vino prezioso. Da qui parte il gioco. Rintracciare fuori dal piatto, dal bicchiere, l'asterisco gemello e scoprire il rimando. Partire dall'olfatto e dal gusto. Per trovare gli uomini e le donne che pescano, cacciano, raccolgono, coltivano, allevano, che trasformano e cucinano, che mangiano e bevono, e scoprire altrettanti discorsi sul mondo, memorie, desideri, conflitti, storie, deliri, paure e piaceri. Pastiche è un laboratorio gastronomico per bricoleur dell'interpretazione e della creazione, per ingegneri sensibili e utopisti. Per assaggiatori del divenire, della traduzione e del tradimento. Occuparsi di gastronomia non significa forse occuparsi di questo? Secondo Veronelli sì, e anche secondo noi, per una memoria fertile e antimonumentale. E buon pastiche a tutti. Non andatevene perché dobbiamo fare un brindisi a Luigi Veronelli.